Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Vi scrivo questa mail distinto, proprio ora che ho finito di scrivere il racconto. Sta accadendo tutto in questo momento, quindi ho voluto cogliere davvero questo attimo e non sprecare nemmeno un minuto. Sono Paolo, ho 31 anni, vivo a Bruxelles ormai da quasi 6 e sono felicemente single. È che stiamo ripercorrendo in queste ultime 5 puntate, a cominciare da ieri fino a venerdì, di diretta di Voi Siete Qui, i macro temi che abbiamo toccato durante la stagione grazie ai racconti che ci sono arrivati. Oggi tocca al macro tema per eccellenza, che è quello che riguarda tutti prima o poi nella vita, da vicino o da lontano, ma spero per tutti quanti molto molto da vicino, ed è l'amore. Quindi la puntata speciale di oggi è una puntata in cui solo per oggi, pronti tra l'altro col dentifricio e lo spazzolino perché si gronderà miele e melassa letteralmente carriando tutti i denti che avete in bocca, oggi si parla solo d'amore, ma solo per oggi io vorrei trasformarmi un po', diciamo, nella Natalia Aspesi di turno. Avete presente la rubrica in cui tutti quanti scrivono problemi di cuore, se ne avete o se ne avete avuti e volete condividerli? Bene, oggi la puntata è dedicata solo a quello. 800240024 349 238 6666. Tutto questo grazie al racconto di Paolo, che è una sorta di cronaca in diretta di un amore che sta per cominciare. E mi è sembrato di capire anche dalla sua introduzione, è già anche bello che è finito. Non pare sia durato tanto, ma lo scopriremo solo più tardi. Appunto, si parla d'amore, di problemi di cuore. Lo hanno già fatto alcuni sul profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24. E allora, già che ci siamo, facciamo così. Così impostiamo subito la puntata, eh? Non facciamo subito capire da che parte gira il vento oggi, o il sole. Il vento o il sole? Tutte e due, che se ne frega. Quindi Paolino, se hai una base di quelle proprio da dentista con il trapano in mano, vai. È esattamente quello che pensavo. Ho 30 anni, non ho il pollice verde, non ho un fidanzato e non ho un cane. Ho un melocotogno che nonostante tutto resiste. Ho una serie di invaghimenti per persone puramente idealizzate e ho una vicina di casa con un cane che è diventato un poco anche il mio. In tutto questo avere, temo di avere anche maturato la fobia delle relazioni di coppia. La domanda è semplice. Sono fobica delle relazioni di coppia perché non ho ancora trovato la persona giusta, oppure non ho ancora trovato la persona giusta perché sono fobica e quindi respingente? In altri termini, mi consigli di rivolgermi ad un bravo psicoterapeuta o di essere più leggera nelle relazioni? Ti prego di evitarmi una risposta alla Gramellini. Un'ultima cosa, adoro il tuo caschetto biondo. E questa era una, firmato Cinzia. Cara Cinzia, beh, non ce l'hai una base però anche per me, Paolo, scusami, perché mi sento un po' la figlia della serva, che gli ascoltatori hanno la basetta melense e io invece no. Ecco qua. Cara Cinzia, i problemi credo non siano legati tanto al fatto che tu sei fobica delle relazioni, quanto al fatto che le relazioni sono fobiche nei tuoi confronti. Devi semplicemente aprirti un po' di più. Devi semplicemente lasciarti un po' andare. Non volevo dirlo e l'ho detta questa cosa di lasciarti andare. Perché in fondo le relazioni sono un po' come i cani, no? Cioè il cane tu non te lo vai a prendere, non te lo vai a prendere al negozio, non si compra un cane al negozio. Ci inciampi nel cane, spesso è un cane che qualcuno ha lasciato per strada. Ecco, l'amore è un po' la stessa cosa, ci inciampi dentro. Prima o poi inciamperai anche tu nel tuo amore e allora spariranno la fobia e tutto quello che ti terrorizza riguardo l'amore. Un'unica cosa, Cinzia, hai 30 anni, è un'età ancora buona. Se aspetti però ancora un po', rischia di diventare critica. Vorrei leggere un'altra... Comincia a piacermi sta roba, ragazzi. Potrebbe essere un problema. Vorrei leggere un'altra lettera che è arrivata, ripeto, solo oggi, dedicata tutta la puntata all'amore e ai problemi di cuore. 800240024 anche al telefono per i consigli, che in realtà io non so dare, me li ha preparati Margherita Ina su un foglio. Io vado a pescarli così, a caso. Mi ha scritto anche Chiara. Ah, proprio le cambiamo così le basi. Mi chiamo Chiara. Negli ultimi periodi mi capita di conoscere qualche ragazzo interessante, chiacchierare un po' e trovarsi molto bene. Ma nel momento in cui decido che non sarebbe male approfondire la conoscenza, scopro che lui è irrimediabilmente impegnato o che non gli interessano le donne. Com'è possibile? I ragazzi plausibili sono tutti presi ed è troppo tardi? Io ci rido su, da soli, non si sta poi così male. Cara Chiara, l'idea che da soli non si stia poi così male è una vaccata. Lo sai anche tu, lo sai da tempo e lo saprai per sempre. Certo, da soli si fanno tante cose, si sta con gli amici, si può andare al cinema da soli se qualcuno ha il coraggio di farlo, sono in pochi in realtà, si può anche andare in vacanza da soli, ma una vita da soli è veramente poca cosa. Mi ricordo qualcuno che una volta scrisse: noi siamo progettati per vivere in coppia, quindi tu sei ancora giovane perché ti sei firmata Chiara 82, sì, insomma, sei ancora, sei come l'altra, sei come Cinzia, c'hai 30 anni, ok? Quindi sei ancora giovane, hai ancora tutto il tempo a disposizione, semplicemente cerca di scegliere meglio il tuo obiettivo. Non perderti con persone che sono già fidanzate o con persone a cui non interessa il tuo sesso, gliene interessa un altro. Semplicemente anche tu, lasciati andare. Non riesco a non concludere con lasciati andare, lo so che è una vaccata, però concludo. Chiara, lasciati andare e smettila di pensare che da soli si può stare anche bene. Benissimo, sembra un po' l'oroscopo, sembra un po' una boiata, ma d'altra parte oggi è l'ultimo martedì di diretta, quindi 80024 0024 349 238 6666. E ne approfitto anche per, prima di lanciare il racconto di Paolo che ha dato la stura a questa puntata, per ricordarvi che è vero che venerdì finisce il programma e quindi venerdì sera, o meglio venerdì notte, abbiamo deciso di fare un piccolo evento conclusivo che non è un live, quindi non dovete venire qui, ma è un piccolo evento che andrà solo in diretta streaming sul sito di Radio 24 a partire dalle 23. Quindi se venerdì notte fa troppo caldo e non riuscite a dormire, se non siete partiti per il mare, siete a casa e alle 23 avete un computer davanti, cliccate su www.radio24.it e vi terrò compagnia per un'oretta e mezza durante la notte, poi vi spiego meglio che cosa accadrà. Se volete già saperlo, andate sul profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui, radio24.it. No, Radio 24 e basta, .it è il sito. Ricordo il numero per chiamare se avete problemi di cuore e volete partecipare, 80024 0024. Adesso la storia di Paolo. Vi scrivo questa mail distinto, proprio ora che ho finito di scrivere il racconto. Sta accadendo tutto proprio in questo momento, quindi ho voluto cogliere davvero l'attimo e non sprecare nemmeno un minuto del mio entusiasmo. La cosa è stata bella per la sua spontaneità e per la sua brevità anche, perché poi diciamo non la ragazza è scomparsa dalla mia vita e ci siamo rivisti una volta, ma di sfuggita, ci siamo giusto parlati quei due minuti, ma è finita lì. La storia che vi voglio raccontare sta accadendo proprio in questo momento. Oggi, domenica 5 febbraio 2012, alle 10.40 del mattino. Ieri sera ero uscito con le solite speranze dentro la tasca del mio giaccone. Un bicchiere di vino con alcuni amici, in attesa di un messaggio che forse non sarebbe arrivato mai. Per incontrare colei che negli ultimi due mesi mi ha quasi fatto impazzire. Invece, mentre fuori il termometro segnava 10 gradi sotto zero e il messaggio che ricevevo non era esattamente dei migliori, le cose presero quella piega inaspettata, non incredibile, ma semplicemente bella al punto da essere irreale. Era troppo tempo che la stavo guardando e lei nascondeva lo sguardo non appena si accorgeva che i miei occhi incrociavano i suoi. La gente intorno a lei, e forse anche intorno a me dopo tutto, era il solito mix di allegria effimera, di sorrisi sprecati per gente incontrata per caso il sabato sera. La invito a bere un tè, non solo perché l'avevo vista prendere la stessa cosa prima, ma proprio perché per un sorriso così non avrei saputo che altro offrirle. Il resto della serata fu un dialogo con una confidenza ai limiti dell'assurdo, che spaziava dal suo amore per la Svezia, gli svedesi, le svedesi, i suoi studi di filosofia, le vacanze e qualche problemino recente. Abbiamo visto chiudere tre bar nel centro di Bruxelles, due ragazze che a fatica si reggevano in piedi mentre mi guardavano e un ragazzo che tentò il dialogo con lei con una scusa che neanche ricordo. Quando le cose stanno accadendo fai fatica a valutarle. E forse è meglio così. Non puoi sapere con esattezza cosa fai, dove sei, cosa accadrà. E quindi vai per tentativi, per prove ed errori. e speri. Quella notte mi ricordo che appunto cioè eravamo lontani da tutta la falsità che si può creare in un sabato sera. Questo me lo ha dimostrato lei e sono rimasto abbastanza colpito dal fatto che al giorno d'oggi si vive molti sabati sera in modo superficiale e quello non lo è stato. Non abbiamo fatto l'amore, anche se le ho confessato timidamente che avevo una gran voglia di farlo. Anche lei se ne sta lì sul letto degli ospiti del mio monolocale. Le sono andato a comprare un succo e due coq, dei croissant belgi, mentre il suo dormiveglia la circonda ancora. Mi ha detto che si sente un po' ammalata. Confesso che sono impaziente di chiederle come sta. Sono le 11 ora. Tra poco si sveglierà e troverà un bacio perugina accanto alla coq. Alla radio c'è una canzone di un gruppo fiammingo e il mio cuore sorride come non faceva da anni. L'amore è stato, manco a dirlo, uno dei temi più frequentati nei racconti che ci sono arrivati. Tutti raccontavano la stessa cosa, ma lo facevano in modo diverso. Il caso di Paolo è eclatante perché la storia l'ha scritta a caldo, anzi a caldissimo, visto che stava succedendo esattamente nel momento in cui stava scrivendo. Tutti i racconti che parlavano d'amore, in fondo parlavano di emozione, di gioia, di sofferenza e in qualche caso di rinascita. Ma la cosa interessante era la sorpresa, era la sensazione di spiazzamento che viveva il protagonista di quella storia, che avesse 20 anni o che ne avesse 80. E senza diventare davvero Natalia Aspesi, in questi mesi, leggendo questo tipo di racconti, ho avuto una sensazione molto chiara. E la sensazione è che ogni innamoramento è sempre il primo innamoramento della nostra vita. Si dice che il primo amore sia uno solo e ce lo si ricorda per sempre, ma l'innamoramento, quello fortunatamente no. È come se l'amore soffrisse di disturbi alla memoria a breve termine. Dei disturbi per cui i ricordi dell'innamoramento si cancellano dopo averli provati. Cioè è come se la forza dell'abitudine non riuscisse ad intaccare quel vortice. Come se non riuscisse a placarlo, anche se si ripete più volte nell'arco di una vita. Innamorarsi in fondo non è come mangiare sempre lo stesso piatto. Non ti ci puoi assuefare. C'è chi dice che nella propria vita si possono amare diverse persone, ma ci si innamora davvero una sola volta. Io non lo so se è così. So però che mi ricordo abbastanza bene come stavo il giorno in cui ho incontrato le persone di cui mi sono innamorato. E mi ricordo che quel giorno era come se fossi un po' rinato. Sì, è così. Ogni innamoramento è il primo giorno della nostra vita. E ogni primo giorno ha sempre qualcosa di speciale. E così, per ognuno la propria storia d'amore è speciale, anche se non è così. Per un motivo o per l'altro, la persona che ci sta a fianco ci sembra la più bella, la più intelligente, la più perfetta per noi. E solo noi riusciamo a vedere quelle piccole cose che la rendono grande. Siamo come dei privilegiati, perché lei passa del tempo con noi, perché possiamo baciarla, possiamo farci l'amore con quella persona, possiamo averla sempre a fianco. Poi, non so com'è, che un giorno ci guardiamo indietro e quasi non riusciamo nemmeno più a ricordare com'era. Com'era all'inizio. Com'era che non riuscivamo a stare lontano da lei per più di 5 minuti o da lui. E quando lo vedevamo ci scappava la pipì per la felicità. Cos'è successo in mezzo? Tra quello stato alterato dell'esistenza e ora che invece siamo pienamente coscienti e sembra tutto tranquillo. Mia nonna dice che le cose cambiano, le persone no, ma le cose sì, quelle cambiano. Non ho mai capito bene cosa intenda per le cose e soprattutto se cambino in bene o in male. Un'altra cosa che non mi è chiara è se i cambiamenti delle cose sono causati da noi o sono insiti nella natura delle cose. Quello che però devo ricordarmi di chiedere a mia nonna è: dire che le cose cambiano è semplicemente un bel modo per dire che le cose prima o poi finiscono. Non lo so, però in ogni storia arrivata al programma, ogni storia che parlava d'amore, c'era sempre una promessa di eternità. Ed è per questo che mi piaceva leggerle e raccontarle. Perché mi sembravano speciali, perché mi ricordavano la mia, e soprattutto perché in fondo erano per sempre. Non smettete di scriverle e di mandarcele. Anche la prossima stagione. Da soli non si sta bene neanche in paradiso. Saluti Stefano. Stefano, grazie per averci mandato questo messaggio, che spero non sia Stefano D'Andrea che è dall'altra parte del vetro. Stefano, non sei stato tu a mandare il messaggio. Comunque grazie Stefano per tirarci su di morale e per credere anche, tutto sommato, che dall'altra parte ci sia qualcosa. 349-238-6666. Io però adesso sono davvero curioso di parlare con l'autore di questo racconto, soprattutto per capire, un po' ce l'ha già spiegato, com'è andata da lì in avanti. Pronto Paolo? Pronto, ciao Matteo. Come stai? Ma abbastanza bene, sono al lavoro, quindi ti lascio immaginare. Sei a Bruxelles? Sì, poco fuori Bruxelles, in una zona industriale dove, diciamo, sono concentrati parecchi uffici. Beh, sembra una figata detta così, eh? Ah beh, guarda, quando ti sei dentro capisci che ti sei sbagliato. Che cosa fai, Paolo, nella vita? Io sono, ecco, un assistente di sviluppo di business, che vuol dire tutto e vuol dire niente. No, guarda, non so cosa voglia dire, però è bellissimo detto così, assistente di sviluppo di business. Che comunque coordino il lavoro di vari team che sono un po' nei quattro angoli del mondo, si va dall'India, dagli Stati Uniti, per finire in Italia, coordino un po' l'ultima frontiera della globalizzazione, coordino il loro lavoro e, diciamo così, faccio preventivi, eccetera. Sono quasi terrorizzato dal tuo lavoro. Scusa Paolo, qual è il prodotto che tratti però? Cioè... sono nei server informatici, telecomunicazioni e network. Ma me lo stai domandando oppure lo affermi? È un modo, no, è un modo per spiegarlo all'uomo della strada. Ecco. Ok, ti ringrazio. Senti, ma la formazione che hai avuto e poi parliamo d'altro. Cioè, com'è che ci sei arrivato a Bruxelles a fare sta cosa? Ho studiato economia, poi ho cominciato a viaggiare all'estero, ho studiato un po' in Francia, ho studiato un po' a Bruxelles e la fine della storia è stato che non ho detto no ad un contratto a tempo indeterminato. Ok, vabbè, ed è pure comprensibile, Paolo. Però hai detto di no all'amore, lasciamelo dire, d'altra parte, se oggi sono la Natalia Aspesi, fino alla fine cerco di esserlo. Hai detto di no tu o ha detto di no lei, tornando al racconto che ci hai mandato? È stato un no insieme, collaborativo. La cosa non poteva andare avanti, però penso che abbiamo entrambi voluto mantenere la magia, chiamala un po' come vuoi, dei momenti non banali di quello che era accaduto in un sabato sera banale per molte persone che se ne stanno in giro, ubriache, eccetera. Bene, guarda, così è veramente pieno di poesia la descrizione di un 2DP che peraltro che abbiamo preso tutti, quindi insomma non è poi nemmeno così, diciamo, difficile, no? Cioè semplicemente non è andata. No, non è andata. Ma scusami, però Paolo, visto che parliamo di quello, io parlerei anche di sistemi e di assistenza di business con te, però mi incuriosisce di più capire. Tu hai 31 anni, giusto? Sei a Bruxelles da 6? Sì. Quindi hai avuto storie o fidanzate soprattutto lì, immagino, ultimamente, no? Diciamo le ultime due più importanti sono state qui. Sì. Sono state lì, ed erano italiane? No. Una italiana e una belga. Ok, è una domanda stupida, ma so che tu troverai il modo per rispondermi. C'è differenza tra frequentare una persona della tua stessa nazionalità, nella fattispecie italiana, e un'altra no? Sì, c'è differenza in quanto... Soprattutto sono convinto che nel fatto della lingua molti sentimenti traspaiano di più e siano molto più forti, più accentuati in italiano, ecco. Ma semplicemente perché hai meno lessico a disposizione o proprio perché no, l'italiano lo racconta meglio? No, l'italiano credo che lo racconti meglio. Il francese rimane molto più piatto, più, anche se comunque pieno di suoni. Certo, è pieno di per esempio, no? Senti Paolo, devo salutarti. Torni in Italia o te ne stai a Bruxelles? Me ne sto a Bruxelles, torno in Italia qualche volta giusto per le vacanze. È bello davvero da turista l'Italia. Benissimo, con questa ti saluto. Grazie Paolo, buona giornata. Anche a voi, ciao. Ciao, grazie. Elena mi scrive: se siamo in pace con noi stessi, possiamo stare bene da soli ovunque. Single, Elena? È su un treno nella foto che ci ha mandato Paolo e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, su una giacca della tuta dell'Adidas, quella che si usavano, quella vintage, quella che hanno rifatto, credo. Guarda fuori dal finestrino quasi rapito, ha una bella faccia, capelli corti, un po' di barba incolta. Non credo sia un autoscatto, anche se... Guarda, Paolo, se questo è un autoscatto, sei il genio di tutti gli autoscatti. 349-238-6666 oppure 800-24-0024. Solo oggi, solo in questa puntata, consigli per... non so neanche come chiamarlo. La posta del cuore... No, cuori depressi, Tiziano non si può sentire. Cuori infranti nemmeno. No, consigli di cuore. No, niente, consigli di cuore. Paolino Corleone fa le sigole alla testa, quindi consigli di cuore. E abbiamo trovato anche qualcuno che effettivamente qualche problema ce l'ha. Problema, mi pare che lei non lo viva come un problema. Ma prima di sentirla però, Susanna, io vorrei, perché dopo voglio leggervi assolutamente un pezzo, faccio in tempo a farlo, vero? Sì. Un pezzo di questo libro che è stato scritto da un architetto che si chiama Marco Cavani. In realtà non è un libro, è una raccolta di lettere che lui ha mandato tutte a quella rubrica lì, quella di Natalia Aspesi, firmandosi con nomi diversi, uomini, donne, giovani, meno giovani. Sono state pubblicate 36 di queste lettere, chiaramente fino a che lui non è stato smascherato e alla fine ne è diventato un libro. Più tardi però vi leggo e vi spiego meglio. Invece adesso vorrei sentire Susanna da Livorno, che ha 48 anni, è single e non dura più di 4 anni. Pronto, Susanna? Sembra una barzelletta, buonasera. No, Susanna, scusami, buongiorno, buonasera, buongiorno anche a te. Più che altro sembra un prodotto con una data di scadenza, non duro più di 4 anni. Così, ma che vuol dire esattamente, Susanna? Si ripete, ormai sono diventata come una barzelletta per tutti i miei amici, perché come mi rifidanzo, vai, tanto più di 4 anni non dura, infatti dopo 4 anni, 3 anche a volte, finisce. Beh, però allora, Susanna, possiamo dire che a 48 anni sei ancora una ragazzina? Come, scusa? 48 anni sei ancora una ragazzina, quindi hai ancora un bel po' di anni davanti. Cos'è esattamente che succede dopo 4 anni? Io penso che sia una cosa che succede a tutti. Io perché ci ho ragionato parecchio, non è che faccia le cose a caso. Certo, sei mica qua a fare le cose, brava. Okay. Dopo un pochino passano tutte le cose belle, come no? Prima se dicevi l'affiatamento con la persona, il desiderio, eccetera. Sì. Però magari tante persone cercano di andare avanti, di costruire qualcosa che poi naturalmente poi finisce. Vabbè, ok, partiamo da qua. Ah, ok, partiamo da qua, Susanna, ho capito il punto di partenza. Però così, ovviamente, così manco cominciarlo, sì. Giusto? Certo, no, ma io credo che le persone abbiano dentro di loro l'idea che tanto prima o poi, no, siccome capita così tanto, intorno si vedono tantissimi casi. Però poi ci si buttano, ormai la vita è quella, bisogna sposarci, le donne devono fare figli. Io cerco di non prendermi questi impegni a lunga scadenza. Tu che lavoro fai, Susanna? Io faccio i locali. Metto su dei locali, pizzerie, trattorie, però cioè, sono ragioniera, che non c'entra ma nulla. Ma nel senso, scusami Susanna, nel senso metto su dei locali vuol dire che li apri, li avvii e poi li vendi? No, proprio prendo, diciamo, l'immobile, faccio tutti gli impianti, li arredo, ci metto anche i quadri e poi li vendo. Ma come si chiama la tua figura professionale? Questo non lo so, perché tutte le volte mi fanno, ma che lavoro fai? E che lavoro fai? E tu dici, metto sui locali. Faccio le pizzerie, le trattorie. Ma quanti ne hai fatti, scusami Susanna? Diversi, diversi. Ma tipo più di 5? Sì, sì, sì, sì. Qual è l'ultimo che hai aperto? Poi ti saluto e ti lascio andare. L'ultimo è una pizzeria a Livorno, io sono di Livorno. È una pizzeria bellina che ho ampliato in un secondo tempo, come... l'avevo aperta piccola e poi l'ho fatta ingrandire. Come si chiama, scusami? Iti Pizza. Scusami? Iti Pizza, Iti è come la scuola alle superiori. Itis? No, sì, sì, però tanti che la fece era Iti. Okay. E quindi è rimasto Iti Pizza, okay. Perché è proprio davanti ad una scuola. Ma una bella pizzeria Romito, no, invece? Ma c'è una pizzeria Romito a Livorno, no? Beh, il Romito c'è, come proprio... però proprio pizzeria Romito, non so, forse è un ristorante. Non va bene, senti, ma quest'ultima Iti va? Sì, no, vanno tutte, va, io sono brava. Fortunatissima. No, sarai brava anche, Susanna. No, sono fortunata, credo proprio di essere fortunata. Susanna, okay. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Non sono riuscito a dare nessun consiglio, mi sembra che li abbia dati lei a me, però chi se ne frega. Grazie a Susanna. Adesso però voglio assolutamente leggervi questo pezzo tratto da La posta del cuore, una storia vera pubblicata da Mondadori, di questo tizio che nella vita fa architetto e come hobby scrive lettere d'amore, o meglio, in cui racconta storie d'amore a Natalia Aspesi. Sono un docente universitario. 3 anni fa fui lasciato dalla mia donna. Una brutta botta che ha avuto come conseguenza il mio ricovero in una clinica per problemi nervosi. Per risollevarmi ho scritto un libro, ma neppure quel piccolo successo è bastato a ricomporre i frantumi del mio spirito. Per uscire dal baratro ho ripreso la vita accademica e ho accettato di partecipare a un convegno di studi in Ungheria. Là stringo amicizia con una collega, una semiologa del posto, una ragazza bella, intelligente, colta e simpatica. In seguito lei viene in Italia e la presento con orgoglio a parenti, amici e colleghi. Ho fama di intenditore di bellezza e suscito una certa invidia perché ho sempre avuto donne belle. Credo quindi per invidia, due miei amici mi segnalano di aver visto la foto della mia fidanzata in edicola, ritratta sulla copertina di un DVD porno. Siccome gli amici continuavano a darsi di gomito e a fare risatine, sono andato in edicola a controllare di persona. È vero che c'era esposto un DVD per adulti che in copertina ritraeva un'attrice con lo stesso nome della mia fidanzata e che le assomigliava molto, ma è proprio questa la prova decisiva che non può trattarsi della stessa persona. Secondo lei, gentile Natalia Aspesi, una che decide di girare un film porno mantiene il proprio vero nome oppure sceglie un nome d'arte? Catullo, Roma. E per i più curiosi anche proprio le prime righe della risposta di Natalia Aspesi, che erano: premesso che penso che la storia sia inventata, per chiarezza la informo che la massima porno star di culto Moana Pozzi si chiamava proprio così anche all'anagrafe, o meglio Anna Moana Rosa Pozzi. Ho voluto leggervi questa lettera perché questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, visto che questo architetto che scriveva storie inventate a Natalia Aspesi in realtà le sceglieva nella vita privata degli amici che aveva intorno, e questa era una storia vera, realmente accaduta ad un suo amico docente universitario, che un giorno, non ricordo dove, se a un convegno o forse alla Mostra del Cinema di Venezia, incontra Natalia Aspesi e le dice: senta, le devo dire una cosa, c'è un mio amico che le manda un sacco di storie finte, si chiama così così così, lo manda con diversi titoli, e in questo modo è stato scovato e adesso il libro è diventato, perdonatemi, le lettere sono diventate un libro che si chiama La Posta del Cuore, una storia vera. Grazie a lui, grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Paolo e ovviamente parlava d'amore. La storia di domani è la storia di Martina e parla di passioni. Per me l'immersione è silenzio, pace assoluta. Ci sono quei 40 minuti, un'ora in cui sei immerso, in cui tutto il resto del mondo scompare. Sì, certo, bisogna controllare l'aria, la profondità, i tempi giusti, ma quello che ti circonda è fuori dal comune. Non ci sono cellulari che squillano, libri da studiare, esami per cui correre o autobus da prendere. Sei lì e non conta nient'altro.